Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, bentornati a Smart City. Nel nuovo armamentario energetico domestico inizia ad affacciarsi la possibilità concreta di accumulare localmente dei quantitativi non trascurabili di energia, prevalentemente elettrica ma anche termica. Come vedremo tra poco, quello dell'accumulo domestico, elettrico in particolare, è un mercato appena agli inizi, ma i costi delle batterie sono in rapida diminuzione ed è opinione diffusa che la disponibilità di accumulatori più efficienti ed economici rappresenterebbe una chiave di volta per il sistema energetico, perché consentirebbe di gestire l'incostanza delle fonti rinnovabili quali energia solare ed eolica, e aprirebbe anche la strada alla mobilità elettrica. E allora, con l'aiuto di Luigi Mazzocchi, che è responsabile del Dipartimento Tecnologie di Generazione di RSE, Ricerca Sistema Energetico, facciamo il punto sull'utilizzo dell'accumulo domestico e anche sui principali aspetti economici. Buonasera Mazzocchi. Buonasera. Allora, senta, intanto perché un utente finale dovrebbe mettersi un accumulatore, una batteria in casa? Ci sono due ragioni. Pensiamo a un utente che si è dotato di un impianto fotovoltaico, che produce energia in orari nei quali magari lui non ha bisogno di consumarla. Se non si dota di accumulo, vuol dire che scambierà energia con la rete. Quando importa energia la pagherà abbastanza. Un po' di più di quello che guadagna quando la vende. Se invece è dotato di accumulo, può aumentare la sua percentuale di autoconsumo, diciamo dal 30 al 50, 60, anche 70%, e quindi tendenzialmente ha un certo beneficio economico. Il secondo motivo è il cosiddetto peak shaving. Cioè, i nostri carichi domestici hanno delle variazioni molto ampie, da valori molto bassi anche a dei picchi quando utilizziamo molti elettrodomestici, e quindi siamo costretti a dotarci di una potenza contrattuale con chi ci fornisce energia abbastanza alta, che può essere 3 kW, 4,5, 6. Quando diciamo non contatore da 3 kW, da 4,5, da 6, facciamo riferimento appunto a questo, alla potenza massima, vale, superata la quale il contatore salta, come si suol dire. Esattamente, sì, si stacca. E quindi diciamo questo comporta un costo che è legato all'impegno di potenza, a prescindere dall'energia che uno utilizza. Se avesse a disposizione un accumulo, può sfruttare questo quando ha dei fabbisogni di energia momentaneamente molto alti e quindi può ridurre la sua potenza contrattuale. Quindi tiene un contatore più piccolo e quando ha bisogno di più potenza se la va a prendere in quei momenti lì dalla batteria sostanzialmente. Esatto. Impegna la rete ma impegna le sue risorse domestiche, diciamo. Allora, in queste due situazioni tipicamente che tipo di impianto si potrebbe mettere in casa una persona? Ce ne sono alcune migliaia che sono stati installati nell'ultimo anno. Che tipo di impianti e quali sono i conti a questo punto? Le soluzioni più diffuse sono basate su batterie al litio e batterie al piombo. Sono due tecnologie abbastanza complementari, quella al litio un po' più costosa ma con una durata di vita più maggiore, e il piombo viceversa costa meno, anche meno della metà, però ha una durata anche più breve. Le soluzioni sono già vestite, diciamo, di un'elettronica intelligente che risolve un po' tutte le esigenze dell'utente. E di che dimensioni sono tipicamente questi accumuli? Per un'utenza domestica tipica con un impianto fotovoltaico da 3 kW potrebbero essere alcuni kilowattora, diciamo 3-4 kilowattora. A questo punto i conti quali sono? Il conto è che per la situazione più generale con gli impianti fotovoltaici che diciamo godono delle regole dello scambio sul posto attualmente disponibili a tutti, il ritorno economico, possiamo di due effetti, l'autoconsumo e anche il peak shaving, non superi 100-150 euro l'anno, quindi non rientra l'investimento prima che la batteria abbia terminato la sua vita. La sua vita, perché ecco, diciamo, i costi di queste batterie sono intorno al migliaio di euro per kilowattora, giusto? Giusto, quindi 4.000 euro. Esatto, sui 4.000, 5.000 euro per avere un sistema adeguato a questo tipo di esigenze. Questo dura 10 anni, se io risparmio 150 euro all'anno grazie a questo sistema, è evidente che non mi sono neanche ripagato l'impianto, no? Infatti, poi c'è una situazione particolare, quella del quinto conto energia, che riconosce un particolare premio all'autoconsumo, in cui i numeri sono un po' più favorevoli, si può arrivare a sommare circa 400 euro l'anno, quindi diciamo la vita della batteria più o meno sufficiente a far rientrare l'investimento, non c'è margine di... No, non è un grande affare, ecco, però diciamo quantomeno quello che si è investito lo si ottiene indietro. Naturalmente tutto questo appunto potrebbe cambiare significativamente nei prossimi anni, perché le dinamiche di prezzo degli accumulatori sono in rapida discesa. Beh, si è già notato una sensibile discesa, sicuramente questo fenomeno prosegue. Le quantità di batterie che vengono prodotte e vendute stanno aumentando per vari motivi, e quindi c'è da aspettarsi che nel giro di qualche anno i prezzi potranno essere anche la metà di quelli attuali, e allora si comincerà a ragionare su dei ritorni economici, diciamo, più consistenti, più ragionevoli. Grazie mille Luigi Mazzocchi. Grazie a voi. Bene, si conclude qui la settimana speciale dedicata da Smart City alle tecnologie per l'efficienza energetica in ambito residenziale, ma continueranno le iniziative intorno al tema della rigenerazione urbana, ci torneremo presto. Intanto vi ricordo che tutti i dati elaborati per noi da RSE, Ricerca Sistema Energetico, sono disponibili sulla pagina internet di Smart City. È tutto anche per questa sera, ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì.